Una è francese, l'altra americana, anche se prodotta e commercializzata solo nel vecchio continente. Nazionalità a parte, queste due station wagon sono all'apparenza molto simili tra loro. Ampia capacità di carico, analoga quantità di cavalli e un'esigua differenza di prezzo. A un esame più attento, però, le due vetture rivelano un'anima molto diversa e alcune peculiarità sostanziali. La prova effettuata sulla pista di Vairano ha messo in luce una grande versatilità e un carattere che non ti aspetteresti da due familiari. Ecco le caratteristiche principali. Nome: Renault Laguna 2000 DCI Sport Tour, Cadillac BLS 1009 D Wagon. Carrozzeria: Station Wagon, 5 porte a 5 posti. Dimensioni: Laguna, lunghezza 4,83 m, larghezza 1,81 m, altezza 1,44 m. Cadillac, lunghezza 4,71 m, larghezza 1,75 m, altezza 1,54 m. Potenza: Laguna 175 cavalli, Cadillac 180 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce. Prezzo: Laguna 35.351 euro, Cadillac 35.721 euro.